Poi tanta chiamata te segnuvano tu, no cara me così allù un buon trovato, e allù un buon trovato, e allù un buon trovato. Nella casa casa tu c'è tu mi va pigli una pezza casa, una pezza casa, una pezza casa. E ti voglio dire mia rallo da budino, e la patrona che va a piallumi, che va a piallumi. E lo tavo di nu e la padrona che va a piallumi, che va a piallumi, che va a piallumi. Era il muro muro, tu certo dava piglio, io da colui, oi da colui, non mi va piglio da colui. Poi quando io rilli porta, dai nocca, tanta ne campa la presenza vostra, la presenza vostra, la presenza vostra. Poi quando io rilli porta il lume di lui, tanta ne campa madre e mamma e figli, padre e mamma e figli, padre e mamma e figli. Poi la neve si nasce alla montagna e ti via stare buona nella tua compagna, nella tua compagna. E la lupinetto che sia stare buono con tuo marito, e il tuo marito, e la tua marito. Poi non